ragazza che la lascia fare, sì o no? Questo fa fetta, mangiate te la, sì o no? Ciao, ti intendo il friggitorio, baroni! Oh, sono freschi e buoni! Ah, se ti friggi non ti va a dire, no, ti interessa, no? Capito, mi hai! E se tu che non hai capito a me? Allora, vera Luca, sparito, E perché lo sappiamo? Allora fate così, cosa va tutto si nanda? Dice, ma poi sta letto sta notte, non la cosa a mezzurino. Ha detto sta notte. Eppure la bai bene, non vi ho subito un cane, vedi? E sparito la circolazione. Boh. Occhio, occhio che su calendoio è! Ah, non vedi, non voglio aprire il bosco di là, passate un passo allo spedo! E da voi, fate abbassare te pure! No, no, venuto a regalo proprio, lì che bagna del tutto, fai che ce ne vuoi, spezza a filo, lì ce ne vuoi! Dimmi una cosa, da morto l'hai acceso l'apparecchio? Questo? No! Qua solo la squadra mi stavo sbucciando le spalle. Ah, perché c'era la musichetta sempre, ogni tanto la metteva e adesso si vede che si è stanco, non la messa più. C'era piripiripi, ne avvivava ancora che ti ha giunto, mi ero rinvistato di chiedere la mano, no, mi stavo guardando documentari del Kenya e sbucciandomi le fave, bello bei pozzi, una coccodrillo, non ti fai il bagno e chi sarà una, no? O se no vedi una macomba, quel serpente grande grande che si mangia un uomo in tre, si mangia davanti su quegli animali era. I chibiru, chiume, c'è stata di cucchi di pigiama, canta una bassona, ci sarà in cucchicchi. Non lo credi? Ma questi sono così rarissimi, penso che non si lasciati alle più di chissi. Ma cosa, se è stato girato nel 2017, l'anno scorso, questo programma che mi ho visto stasera, adesso non mi ricordo come si chiamava il programma. La macomba, un serpente, prima l'ha cansato in mezzo all'eva, l'ha tutto tussinato, l'ha bloccato, no? L'ha tritolato, lo soffoca, da poi si tira ingudito da un gabbo di mia bocca, e si tira ingudito. Certo. Giaro masticheggiaro, o no? No, ti ingoia, prima ti stritolano e poi serpentino, ti stringono, ti imbrigheggiano e dite, ti soffocano come ti stringono. Da poi vedi che non ti muovi più, che sei soffocato, si sciogli, ti gira il tondo, apri la bocca e ti cingoti dalla base del gabbo. E se tra tutti in tre, ogni tanto con una zolfata, no, e tu e lì ci gheggi dentro. E vedi la forma, no, chi ci mangiano i cucci? Poi dritto, non so cosa farà scegliere a me. Già li ho visti quelli lì. Cazzo. Ho visto un po'. Un altro tipo di serpente ha beccato la mano a due persone, tutto un braccio a dritto, fa un po' di distacca il braccio, però ve l'ha fatta a incondizione a chi era un colpo dentro, fra frasiano. E finalmente a chi la lì mosso, ma che ha distaccato il braccio dalla bocca. Che c'è pure a giudizio? No, l'altra volta ho visto questi indigeni che erano a caccia, poi si sono bloccati per riposare e uno si è appoggiato all'albero, inclinato, no? E si sono dormiti. Arrivi questa macomba, questi serpenti come si ha giudizio che girano. E chi c'era minore, minore, era mano a mano. Arrivi questo serpente. Maconda, e lo sai? Quando si ne ha abitato in Ayami mi dà bitorra dentro la bocca di un serpente, non vorrei riuscire ai scimmi, si tira in cuciti in tre, e chi già si una viene con le lance, pugnene, la chi ogni colpo di coda si t'agganza, ma chi tu agganza mulla, e si tira in cuciti vivi. Ai te, bebe. Da strappiera la banza ya. E poi si vedeva la sagoma della persona all'interno di Vince, da poi che si tira il cuticchio, da cucciola di cicata e si trova da fare in un lago, quindi. Non so, sono paludi, nelle paludi vivono, ma d'una pezza di vecchia, e da pezzi bicicchi buchi nata la terra. Arrivi striscia striscia, ma cura intendi. Beh, da roba, beh. Non pensi troppo tranquillo, no? Oh, a fatto vedere, come ci vivono dei passoni. E vanno i gappanni, no? E la recinzione è tutta fatta di rami secchi. E ogni tanto pare una mucca. Una ventina di grabbiti o peguri l'hanno tratto di notte, dici entrani e se si ringogli e si avviano. Ma i gallugue che stai a chi stai che si godi chi sa di so sa di sa l'ultimo zecchino di Gesù Cristo in Kenya in Africa, l'Ugenia non è in Africa. In Africa, però nella zona paludosa, anche l'Africa è un bel man. Lì ha fatto vedere tutta quella zona, non so quanti chilometri e chilometri, è tutto paludi. Infatti vedono gli elefanti, a mulli, lì gnu, quelle specie di mucche. Vabbè, vai, ci sentiamo dopo, grazie, che devo fare cosa. Ok. Ok, sono qua. Chi è là, chi è? Illu! Drommi. Città drommi, ravanella e di un'onda. Allora sarò per capretto. Eia! Forza! Scusa, devo mangiare io adesso, mi dispiace per te. Ma sa far piovere, come fa Rossino? Ma questo platamone è bello, speriamo che non piova. Ma che appunto è, patrone lampi? Da fare il rotolo, babbecchio mio, un po' cosa sta a tettoia. A che invece a San Giammaria? No, siete diabetici voi. Giammaria lo può mangiare. Anche a Giugiappani si domani a Giugiappani. Prova a dirglielo. Dopo. Ciao, Mario di Giro, telefoneggialo. Dici, mi sto preparando il capretto, vieni verso le 9, così mangi anche tu. Così mi devo dire. E allora? Io alle 9 ho già finito. E cosa mangi all'ora dell'ospedale? Alle 6? No, alle 8. E cosa si? Flecci. Che te mi pongo un paggio da che andà a finire a mangiare. Esagerato. E mica devi entrare a travagliare, appunto. Cazzo travagliamo, quasi a veloce, 10 minuti. Certo, si mangio un paggio di cuppiezzo. Piano piano, lemme, rilassate, così a senti bene, no? E certo che sì, ma da quando mi siedo mezz'ora ho già finito. No, io mi la prendo con calma, che da buia ultimo mi mangio la frutta, il dolcetto, No, ne devi mangiare che si robbi, né frutta né dolci, ma insomma, come ti lo devo dire? Per forza ci metti di più a mangiare, perché mangi quello che non devi. Vabbè, intanto mi muori, o muori di drone, muori di lampi, dunque. Ma cercarsela non è che va bene, grazie a però, Ma passa bene gli andare. È mica meglio mangiare meno per tanti anni ancora o mangiare tanto per poco tempo, Mi so capite un cinese, mi so capite cosa piccato, mi so capite cosa nata, te la canna la pesca la troncata se si la piccata, è rimasto con un rullino in mano. Intendo un rullino. Ma se si vede una videocassetta. No, un telefonino su internet. Questi non so che sono già pulito, coreano. Ma non mi danno che fa la casa. Ma già un attimino, è poco finita. Mi sa cosa è. Adesso vediamo. Guarda che il tuo telefonino lo puoi usare anche per guardare nella televisione. Cos'è? Lo so. Insomma, ti rendi la canna se tronchi a Bruvizza. Caspita, chissà cos'è, è un bel pesante di vasco. Sotto la vacca sei scisci. Senti la letta. Senti, la letta è silenzio. Recupera il silenzio, insomma, riesci a vivere. Ha ragione, sei pavite di grazia. No, con Luca. Con il telefonino e fammi dirgli. Fammi dare su la gatta, bubu. Stanno recuperando l'enza, riesci a finire. Capita. Luca, capita ogni appesso. Beh, io sono il motore della vacca. Cosa ogni bocca, ogni appesso di pesci. Ecco, contenti i giorni. Chissà che pesce è enorme. Quello è pesce banane, quello che piace a te. Capita, mica è maduro, quanto una carriola per me. Vabbè, l'ha cantato con l'arpione e viene attaccata la vacca, che è troppo umano. Capita. Che se no si rigirava la vacca, avrà fatto la tandina a sopra, no? Si rovescia la vacca, che è pesante chi su. E infatti trascinato così a fianco. A fianco la barca, là lì, infilzato con gli altri arpioni. Chi non vuole di nata la vacca, si mangia i chi su questo. Mi ha messo di bocca. Utenti già che ha ribicciato. Pesca buona, Ma io mi spero un pesce, no che non ti le... Ma io mi spero... Tutti i pesci che arriverò, che da chi dà, vengono da chi dà, come il salmone, eccetera. Tutti i no che la regano. Caspita, mica è manna vedo. Una canna la pesca con la lenza grossa. L'hanno pigliato la prima canna e l'ha troncata, poi l'ha cacciata con un'altra canna. È grande. Forse stanno provando a bere a portare. portarlo sulla barca. Una svampione là nel buio. O c'è un'istituta, me, mi porta tutti, ah, che sta, un appesso. Me, contenti, so, hanno piccato un bene. Pita, tutti contenti. Sì, adesso. I saluti, fate rifiuta. Ogni chitarra sono denti che su vimmi. Ogni chita. No, questo è in diretta su internet. Lo sto guardando nel telefono. Sì, ce l'hai dato. Tu ogni chitarra dati richissi. Te lo fai vedere in tutti i luoghi, te lo fai vedere su cose, capito? Però lei ha dato. Tu non ha chi da fare il tuo programma, capito? Sarei fatto la giornata a chi di tutti i canti. Non si immaginava, però ne ha dato a me. Capita, contentare di erano, l'hanno di spendere il voto. Pescatori sono. E chi tu anda pasporto? Li pesca, dopo ti ritorna in cappa. Chi ce l'ha giunto la strada lì? Hanno affiliato un bene e ci diranno per tornare male. Però lo fanno per gare, sono mia, chi pesca di più che riesce a pigliare il più bello. Cos'è? Un'orata era? Un'orata. Era canto una balena. Non so che pesce, un pesce... Va via la bocca enorme. Ciao Mario. Oh. Intendi la thailandese. Già, giustizia. E tu lo comprendi, sì? E io già lo comprendo. Attaccata alla patata, di patata. Compreso. Eia. Pignenti. E a chi è Pignenti? A chi la giunta lo pipirino. Mi piace, peccato cazzo. Peccato che lo fai ai nocchi. Ecco la lista. Esci la cinturinata, vedi. Corri di mamma. Con la lista, e la pignetti. Ti tenni. E te sarà. Ehi, già la chiesa, già la ci ho preso a burro. Quella è araba. Thailandese, cara, ma senti, senti già! Vai, andiamo, computer. No, su Messenger, la videochiamata. Non la rita, ma non mi ci dispiace. Pure a me piace. Mi dispiace pure a me. Ma è troppo lontana. Come si si può fare? Luca. Lontana. Dici io vengo lì, vengo. No, non ci venire qui, no, che siamo lontani. E qua c'è troppo caldo, diglielo. E allora la beffa fa la trapassata in coccia di squali. A te le immagini. Ma cosa gli faccio? Cosa gli faccio io? Di gratta ripati, di gratta ripati. Luca, dimmelo tu. Come lo possiamo risolvere questo problema? Con le rose. Senti, Gio Maria, gratta di ripati. Sempre che ci cose avete detto. Buonasera a lui, buonasera. Ciao Gio Maria. Ciao Gio Maria, buonasera anche a te. Ehi, raga, non ti va, dai, ce l'ho per va di peggio. È maniaco lui. Graziano è diventato maniaco, è pericoloso, è pericoloso, bisogna tenerlo lontano, io Maria cambio. Ma si può? Avanti, avanti, sai che l'altro era Marino, avanti Marino. Poi se non mi sento, avanti Bacchi. Ok, buonasera Luca, buonasera anche Graziano e Gio Maria, e anche gli altri che sono all'ascolto. Marino stava bussando, avanti Marino, hola, buonasera. Marino non risponde. Ciao Bacchigio, Marino è sordo. Bacchigio, mi senti però? Ah, ti sento già, Grazia, come non ti sento? Ti assento, ti assento. Tutto il sporpagliato si è assentato. Avanti, riprendi ancora. Marino, ci sei che non ti sento più, caduto sì, me la fai. Non mi senti adesso, Graziano, buonasera. Adesso sì, vai con per chi vuoi. Grazie, grazie amico mio, grazie, almeno tu mi stai, mi vuoi bene. Ciao Gio Maria, saluto tutti quanti, ok. No, sto provando con il tendino, è tutto qua, stavo provando a scioglie in mano e sono interattino, non l'ho piazzato su dove l'ho l'altra volta, capito? Ce l'ho in mano in questo momento qua e volevo un controllo, vediamo se Gio Maria mi ascolta. Avanti Gio Maria. Ehi, buonasera Maria, ti sento, ti sento, c'è Graziano Bacchi tutta la sera che ha parlato da solo, boh, ha pigliato dai do tutta la sera mi Bacchi. Ehi, ehi Gio Maria, buona serata. E lascialo pavizzare. Bacchigio, mi ascolti tu? Anzi Marino, se mi ascolti, buonasera. Ti ascolto, ma c'è un po' di coerenza, tu come mi ascolti? Io ti ascolto con le orecchie a fondo scala. Ho fatto quel lavoro che tu mi hai detto, solo che non l'ho piazzata, ce l'ho dove la prima volta, la staccaccio in mano veramente. Sono qui in terrazzino, mia figlia ce l'ho in mano in questo momento qua. Tutto qua, comunque l'ho tagliato e vuol dire va bene, domani la piazzo in quel paletto, va. Ok, scendo giù e qua c'è un po' di freddo. Ok, continui, riprendi, Bacchisio, che scendo giù e piazzo l'altra, dai. Ok, va benissimo, Mori, allora, dai. Va bene, va bene. Ah. Ecco piatto, Bacchisio. Prendi tu. Ehi, ciao Bacchisio, ciao Marino, buonasera. Non so se mi ascolta Marino. Avanti, Marino. Ah, ma non mi sente, dai. Avanti, grazie, riprendi tu. No, Marino non ti ascolta, deve essere. Graziano, avanti. Ehi, sta provando Marino l'antenna. L'antenna sta provando Marino. Un'antenna tascabile sta provando. Caduto e non risponde più. Avanti Gian Marino, di la tua. Ehi, Marino ha detto che va freddo, questo che mi pare che aspetto tutto. E se n'è andato a caldo, se non sbaglio, vediamo un po', Mari, ha mollato che c'aveva freddo, ha detto, perlomeno ho capito così io. Vediamo un po', grazie. Ehi, no, oggi senso che va l'antenna in mano, va, ha fatto un'antenna. Ah, l'antenna in mano, poi. E allora le prendo la ciabatte, ho le piante, non penso che si abbia attenti, E beh, ma chi tu risolto hai il problema dell'antenna, o no? Sono entrato. Già, non sei arrivato, benissimo. No, l'antenna era quella della Coso, della 27, il 20 aveva staccato il PL, l'aveva svitato. E per quello non usciva, era neanche appoggiato, era a 10 cm lontano dal bocchettone. Eppure ascoltavo a te, ascoltavo a Graziano, a Tore, però io in trasmissione non andavo perché non c'era antenna. Avanti di quello che è arrivato. La Bacchini ti ascolta abbastanza bene. Ma ho fatto quel lavoro stasera e so che vuoi, so che è stato sul palo. Adesso vediamo domani, se non piove la piazzo, tutto qua. Bene, avanti Graziano. Ehi, e cos'hai? Zappando stavi? Stavo zappando, stavo pulendo le patate, Graziano. Stavo pulendo le patate, tutto qua. Ok, avanti Graziano, fa girare. Ehi, Bacchigio, dato che non mi hai portato le favette, me le ho comprate stamattina, una cassa, tutta la rimbuccelli va, vai. Ancora non è tempo di fava, grazia, va. Qui c'è l'anima di Luccica. Minimo che quelle fave tu le pagate a 3 euro o 2,50. 10 euro quella cassa in plastica mi ha dato. L'ultima che gli era rimasta, dici finirà una ralpata. Me l'ha data 10 euro. 10 euro e quanti chili ce n'erano? Era piena la caccia, via giubito, forse le 5-20, mi sembra, di imbucciare, e più ne ho cucinato anche a mezzogiorno, una bella gassarura, buona, dozzi mintata, aglio, prezzemolo e peperoncino, buona resa! Però beh! E andavi allora hai fatto un affare, Grazia, hai fatto un affare. Capito? Hai fatto l'affare, hai comprato il subricio, hai fatto un affarone. Avanti, Luca! Io rimango in ascolto, dai, sto facendo roba, le riprendo fra 10-20 minuti, dai, più o meno, sono in ascolto. Va benissimo, Lu, allora, fa pure, già siamo qua in zona noi. Oiaia, avanti, Gian Marì. Desire, de zero, una caccia di fava, ma forse a garraggio non fava. È tutto il manzano che c'ha ragione, i buccelli di fava. Ogni tanto la sentava, da poi si cominciava a entrare, i buccelli della fava, però dici è minuta, dici che è un bel minuta. E poi forza, dai, non li faccio la fava che non è mai croppita ancora. Catta, non per manco gusto qua per mangiarla, tutto buccia è. E tutto buccia ancora, capito? E poi questa è l'animaccia di nana. La sua di, non si rimani. Non si rimani da volte per due vicino alla garage, 4 euro al chilo. Una cosa, un chilo di fava, 4 euro. Dai che in buccia vi dava 100 grammi di fava. A 4 euro al chilo, per carità, vabbè, la prima se la fate ripagare e sicuramente tutto buccia direttamente. Ma scusa, ma dopo arriva cosa fa da qui? Come? Non ho capito l'ultimo passaggio. Dopo arriva cosa fa dalla Spagna? Ma dove stanno portando cosa fa dalla Spagna? Non so dove sono, roba marocchina deve essere. Sicuramente, roba di terra, boh, non lo so. Avanti, Giovanni. Ok. Capito, ma chi? Tutti sarei dalle lato, gatta. Ma è un greco, è dozzi, no? Capito, questi minuti è dozzi, è un greco, ma è tutto buccia era. Ma non è grazie, ma è sbaglio, c'è il buccia la paletta, la buccia burro. Ah, che se fosse buccia tutta così, no? A chi se non mangiava nulla? Capito? Pure la buccia cucinata con Graziano. E allora, ebbene no, dimmi, il pianerò trovare la buccia di la buccia con la caccetta viuta. E lo fai! Graziano, porta via la buccia. Butta via e ti fa male qualcosa da fare. Porta via il pianerò, tu mi fai male. Ma chi? Io. E dici che sta posto pure la buccia in freezer. Pure la buccia a prise buoni. Fai forza, ma se no tu poi non ha. E poi la buccia, dici, so che buccia di fava. E buccia di fava. Lui sapessi, Graziano, quando cucina gli asparagi di sbuccia. Però, anche se credi che diventa di maldura il frise, capito, ma chi? Graziano ne sa, due righe ne sa. Capito? È un esperto in culinaria. Graziano è un grande chef, vero Graziano? Ah, Graziano, ma riparamo a rimbucci prima di cucinarlo. No, ne taglio un pezzo di sotto a chi c'è tutto e non si ricordo mai. Allora chi sono lo taglio e se lo rampo. E io mi mangio lo denaro. No, io rimbucci invece. Via da te, io non mi rubo affetto, mi mangio tutto come te, bravo, poco la cassarola, aglio, prezzemolo, peperoncino e trubacchettaglio, dai tu, te, pisilli, tisane, broccoli, pavette. Oh yeah, il piatto è pronto. Stiamo arrivando, Garcia. Stiamo arrivando. L'hai già preparato il pranzo per domani mattina? Cosa? Non ho copiato che mi stava parlando, Mari. Hai capito, Mari. Ho organizzato per domani mattina. Cosa ne faccio per domani mattina? Quando viene la padrona al show. Sì, se roba buona veniamo noi, io, Gio Maria e Bacchiso, prepara tre sedie in più, avanti Bacchiso. Cosa mi prepara Graziano, non prepara nulla, devi intendere legnavesi, devi intendere, che ci gravava? Bacchiso, ti interessa molto coltivatore, Lombardini, va 9 cavati, 5 neri e 4 bianchi. 550 euro, ma lo sarà rutoglio. Ma quanti cavalli vai? Aia, no, sono cavalli va. Cavallini, 5 neri e 4 bianchi. Non ti interessa a te, Marino, o a Gio Maria pure potrebbe interessare. È rosso, è bello. No, oh, io ho una zappa nuova nuova, ma insomma è come quella che ci ha bacchito, no, non ne faccio nulla, no, non ne faccio nulla, mi va bene quella che ho, avanti Gio Maria. Ehi, e infatti, attore, dillo attore, ci si scoppereggia. Così comincia prima con la motozacca, con il motocoltivatore e poi la campagna, no, piano piano, pezzo a pezzo. Grazie. Ehi, siamo di attore, attore la interessa, si scoppereggia la campagna, dice che è il motocoltivatore, se no la strappo davanti. Infatti, allora, ma ha fatto tutto visto o no? Mi pare che gli lascia tutto, no, Bacchino? No, coso? Mi ha voluto casino a farsi mandare da finire il puntone. C'è le piazze come intieni, ve la frutta, fiorenti, ha detto, venga, che da mangiare però per passare un poco di tempo, devo andare in città, a mangiare la frutta. Anche la bella fiorente, la figa, tutte le piante così sono già passuti. La vera ancora no, la bruna è fiorita. Ah, le piazze, però la sappiamo il barolo buco. Ma si è fatto da cemento? Sì, ce n'è già fatto un bel pezzo, Maria, a cemento. C'è un piazzale, saranno 300 metri quadri di roba, tutto a cemento. Però già basta, allora devi zappare. Allora si mette qui in pipa, devi zappare, sole. Non anda male, avanti Garcia. Ehi, vabbè, se non ti interessa lo dico a un altro, non c'è problema. Ok. Ma Tore non c'è, no? Tore deve essere a Corfenti, a Lecce d'Elefante. Devo andare a fare il gasolio e poi a casa. Ma lei sta ascoltando. A me non serve che sia nascito due, facciamo tutto per il motocoltivatore. Anzi, ne avevo due motocoltivatori, uno da 15 cavalli e l'altro ce l'ho da 10. Quello da 15 cavalli l'ho venduto. L'ho venduto, regalato, a chi non mi ha bruciato di là. Hai fatto un buon successo, da qui là. Successo hai fatto. Oh, cosa gli hai dato? La motozza. Molto con 15 cavalli. Tu devi pensare, ci avevo messo la fresa qualche mese prima, la fresa nuova, e non la usavo perché era pesante per me. Lo trattava una volta ogni morte di babba. E alla fine, insomma, mi rovendo. Ho trovato l'acquirente e è venuto, sì sì, mi interessa. Ma ha dato 200 euro e non ha giubito più. E poi basta andarsi alla casa sua, sai. Si l'ha venduto. Ah, si l'ha venduto. Un truffatore già. E la mia bici, un salvetto, Gio Maria. Ehi, queste cose sono di là i contatti. Si lo dà a chivi. Specialmente io ti vi sono ben che fate questi travagli, capito? E allora rifummali me. Sì, ma sai cos'è? A chi lo conoscia, mi sono confidato a chi lo conoscia, ma non penso che sarà così disonesto, delinquente, no? Invece disonesto, delinquente e 50 volte. A chi ti conosceva te l'ha fatta allora? A chi fai altro già ne conosci, già ti conosciamo con Bacchiglio. Ma chi? Oia! Bisogna stare attento a queste cose, ai taglietti, so chi si che ti butti lì. Sì, va bene. A parte, non è diventato ricco, io ho uno straccione peggio di prima. Eccata, quindi sei capace. E cattare la mia, cattare la mia, tu mi sono fatto un coltivatore. Sì, era un po' anzianotto, la benzina era. Ma ogni abbassata di prezzo faceva 1,30. Chi ci travaglia, chi ci travaglia, la Lucrezia. Sì. Oh, io vedo, questi cavalli. Come senza cavalli, ma fino a pari buchi. E paghi sui, paghi sui travagli che fa da me. È un gioiello, dice mio. E infatti, non io pure faccio senza cavalli, cioè andava in faccia, per molto sa faccio senza cavalli. Dunque, uno l'altro si pone in funzione. Avanti, Marì. Siamo qui, anche io ce l'ho, uno che non è grande, grande, del motozappa, ma... Per gli 5 cavalli. Per quello che devo fare io ce l'ho anche troppo, figlio, se tanto, fai sulla tratto. Già va bene così, va bene, dai. Quello là non si è fatto né ricco né povero, Bacchinta. Intanto la faccia Zoglia, boh. Non ho più visto la circolazione, è ancora vivo, E chi? Chi è vivo? Chi è vivo, grazie? Ma Marì. C'è il moto coltivatore, è ancora vivo, è morto. È vivo, è assagato ancora. La lesione, lo farò. Avanti, grazie. Io gli aveva fatto sborsare di no, a Maragana. E a lui. A più ragione io non dà mai nulla prima di no e da qui la merce. Oh no, Gio Mario. Ma queste cose non bisogna fare così allora. Non bisogna mandare faccia a nessuno. Poi chiamarete subito, boh, se è così. Però, si vede magari da approfittato a chi magari anche non ci viene, l'ha dato racconto e un resto, beh, casi vizio se vizio, ma chi... buone rifatte, Aghissu! Cosa buone rifatte, manca, ma... Sulla fase bene a culo, vuoi pigliare e basta. quando uno nasce disonesto, muore disonesto, sta tranquillo. Infatti, dopo mi è piaciuto con una fesseria che non conoscia, e mi dai baita, mi dai. L'idea della fresa che ci ha preso, il motore te lo regalo. Va bene, sì. Si è pigliato un corso, ho pigliato 200 euro, ha detto... E l'altro a fine mese te ne dopo, vabbè. E arrivi a fine mese, nulla. Arrivi a fine mese, nulla. Alla fine ha detto, arrivi al menino, ti do cosa gli hai mai dato. No, mi ha vinto tutto te l'hai. E allora mi dirà, non naccio. E cosa vuoi fare, codillo? Chi sa che ti dirà vinto va guadagnato lo triplo? Mio va guadagnato sopra il riburo. A chi io la presa che ha pagato 600 euro, mi dai 600 euro e lascio te lo regalo. A chi non conosceva abbastanza me. E invece mi ha pigliato baronazzo, botte e tutto. E lei l'aveva denunciato. Vengo subito, mi stanno chiamando, mi prendi, Gio Marì. Sì, alla casa mi ha del casturaggio dove non siete, non è così Marì, non si è assentato. Avanti Gio Marì. La questione seria quando uscire e fece cosa fa e cosa ne può fare, non ha nulla, non può fare niente, cosa? Così che chi si è fatto magari ha fiduto magari una cazzata, ma te si è e dice che di là e si è fatto avrà fatto così per carità che comunque fai la motozappa, ma no, così è. No, faccio la motozappa e il motocoltivatore non si cavati, ma ci faccio tutti e due. Chi c'era 15 si è ragionato. Chi c'era 15 cavati. Mi è rimasto il sedanese e la motozappa da 10 cavati. Manda bene a me, viene avanza pure. Ma mi ha aggiunto la motozappa, pa' chi ti troncava il rognone, il vibratore, come ti vibrava, gatta, e se ci vuoi se lo fai camminare, gatta, ti parava e non riusci più a cavalire. Mentre invece molto coltivatore fa la bocca. Se non trovaglia beh come mettere molto zappa, però si basso di voti e a fare Roma stessi, capito? E non mi stracco come te la molto zappa, capito? Per cui ho preferito molto coltivatore che andare a Sura. Peccato non mi ha un carrellino a posarmi in alto pa non cambiare a piedi. Mi sembra comodo. No, già fare la moto coltivatore, se per farlo volare cosa fai? Quindi un sacchetto di arriva o di patate, lo viene di terra e per buona innanzi la fresa, e la sai come ti cammina? Un treno! A fara sì, però ripeto, fara, magari la seconda volta gli affara, anche la me magari un po' argillosa la terra, per cui due volte deve passare, allora te la fai a che gira e fara pure. Sì. Però secondo un terreno che come tu hai detto farà un bene, no, è a fara io, cazzo, non è che lo fara, ma lo fara come mettere molto zappa, capito? Non ti travaglia come mettere molto zappa. Molto zappa fara, però la terra la fase fea, la fase più grossa, invece chi sono molto coltivatore lo fa una farina proprio paesto, un piano. E poi per il radice, capito? La giubilà proprio malissimo per il radice puro. A chi... Mi hanno fatto provare uno, però ha visto che parava troppo e per le radici piante, che a me tutti piante, cazzo, se non fai fare un bene, cazzo, trocca la radice canto bene, cazzo, allora è filo di colpo, capito? Ma a me mi faccia un paio di passati, allora sai, come c'è Piazza Italia, dici, ma chi? E a Puglia, bisogna zappare un bilio di stuzzo ma poter zappare come te i cristiani, capito? Infatti, bisogna farlo così. Avanti, grazie. Io quando mangio venduto un carrello, allora voi tolto, e se glielo così, il carrello è pronto, dammi le dinanze, io ti faccio il passaggio. E se ci sei buscendo e ci rubate il passaggio. E così ha giù fatto. Ma ha dato ridinato che è andata la motorizzazione. Ha giocato la targa mia e ha pagato il baffonice la targa azzurra. Gli ho fatto un foglio, tutto a posto. Ciao, arrivederci. Poi su carrello lo svolgono. Un carrello in campagna serve sempre a questa roba, a car roba, capito? No, non lo so quello, già non so cos'è. Ci sono tre volte se uno mio, è sempre fermo. Però serve sempre, dai. Cambia anche la gente, gli serve un carrello e per cui non li do qualcosa, dai, si praticheggia e che si va fucci. Però mi serve, capito? Se non abbia dato io muro a chi non so contrattende. Cioè, non provo ancora, ma ho fatto tre viaggi, ho fatto solo un viaggio di blocchetti e un viaggio di sabbia. Lascia di finire su internet tre in vendita, lo più caro costava 600 euro, non lui, come quello che avevo io, LB. Poi veniva uno 4,50 e l'altro 3,50, già erano i bolsi vecchi. Il mio, tanto lo usavo quando faccio per campeggio o per rendere materiale per campagna, siccome non devo fare più nulla, cosa me lo tenia qua? Ci portavo le olive, il periodo delle olive al mulino, non me ne ha fatti nulla, fa arruinarsi per i miei chibi, nonostante era tutto tappato, c'era rinciutato il blu e rosi, le ho sbloccate, fatto camminare e tutto, ingrassato, tutto tanto. zappa di chivi e per rimani così agitava me lo vende e non mi ha tutti via. Sì, no, ma io ho lasci chivi. Cado mi serve, ho fatto altro attacco e posso uscire che devo fare. Avanti Marì! E lo ce l'hai in campagna il cavello, Giovanni, o in garage? Non ho capito, Marì, interrogativo. Il cavello dove ce l'hai, in campagna o in garage? Che cosa, un carrello? Ero. No, in campagna ce l'ho, sotto la tettoia, già è riservato, già. Già è riservato il carrello, capito? Ma io non so se sia riservato, se sia coperto. Tutto qua, perché io c'ho il mio vicino ce l'ha sempre. Va a caricarsi i blocchetti, i colazzini, la savia, e lo usa, quando lo usa ce l'ha sotto la baracca, ha coperto, e ciccia, così si fa i lavori che deve fare, tutto qua, già serve, fregate, già non ti chiede il pane, il tuo marito, quello lì, quando ti serve ce l'hai sempre, avanti, Bacchì. Davvero? Già è comodo il carrello. È comodo, si trasporta di tutto senza stare lì a chiamare, invece no, chiami la moto, o non è impegnata, o non fa tempo, esatto. E poi, sia il viaggio sia pesante, sia leggero, sempre 30 euro solo. Esatto, ha bussato lo squalo bianco, avanti, buonasera. Ehi, buonasera amicata, sempre Fabio Denio di Garrello e Magnassi. E cosa le fai da scusa? Noi abbiamo, grazie a Dio, la materia prima a mangiare. Tu non sai quello che deve cucinare, che stiamo domani, guarda, è ancora il nostro chef, è il migliore che c'è. Avanti, grazie per lo scolo bianco. Ha detto che non ha gana di entrare, non ha compreso se si è assentato. Ah, ok, avanti, da qui. Ragazzi, ma futti, ma cata pensando a mangiarsi, bobo, pensava, però, Giomarì. Oui, buonasera, signor Toro, ben entrato. E tutta la die, cata, fammi di mangiare, c'è il sastro, ho già comprato una cascetta di fava. Ma era tutto buccia, allora cosa ho fatto? Ha cucinato buccia e tutto, e un po' se ce la portai in frise, buccia e tutto, minuto a minuto di seghera, già non credo, era minuto come se un capo di alluminio, guarda, e come ti fai a cucinare una cosa del genere? Ah, Gio Marì, l'hanno venduto la buccia, solo. Ciao Popletta, ma non è tuo marito che ha comprato la buccia, no? Bubu, Gio Marì. Ha bruciato Rosi, là. Si ha bruciato Rosi, buonasera. Ma insomma, no, ma allora non sapevi compreso Rosi. Ciao Rosi, chissu, occhio mi che fui bu, una cosa, stai attenta a me. Ah, già sono partito mazzano. Maggio, le fa vette, non so cos'altro ha pigliato. Dice, mangiamo, facciamo l'amore, dice, e tiriamo avanti. Così ha detto il Tomazzaro. Sì, Graziano, dossi. E ma seguente ha detto Gio Maria che era canto un capo d'allumino. E che cosa mi hai mangiato? Tutinagliolo. Vabbè, dopo vediamo quando esce la mia, se è buona, capito? La vediamo se è buona la mia. Io penso che sarà buona la stessa. Allora, la pianta fa anche il padre di Marina, però purtroppo ha una vicina di casa che fabbrica non ne può più piantare perché dice che gli fa male. Purtroppo lì deve fare a meno a piantare le fave. Comunque le fa buone, le mette buone. E se quelli le impedisce, sì. Se no, bisogna vedere com'è la situazione lì. Se è molto vicina, sì, 100 metri deve essere dalla casa. 100 metri? Capito, Luca. 100 metri e puoi piantare. Te l'ho detto, 100 metri più o meno distano. 90-100 metri. Via. E non l'avrei piantata, l'avevo lasciata abbaggiare. L'avevo lasciata abbagliare, l'avevo lasciata. Capito? E perché io non sono fabbrica, eppure le pianto. La settimana scorsa mi hanno fatto male, non ho visto che entri più in mezzo. Comunque, vabbè, è pericoloso, cioè che è mortale anche, è vero? Così dicono. Però bisogna vedere, a me mi fa male il fiore. Quando c'è il fiore mi fa male di testa. L'altro giorno ho sentato nella serra, c'è solo quattro solchi dentro la serra. Sono entrato a vedere se ce n'erano già pronte. Quando erano le 11 c'era caldo. Mi sono uscito a tutto un altro, sono stato una settimana e non capivo un H. Lo so, mi sono ben male. No, quelle che mette il padre, che pianta il padre sono buone, eh. Quel terreno è buono stesso, è lavorato, terra buona, come si dice. Infatti quando andavo la domenica, una passeggiata, che chiudeva me la mangiavo, ma buone, dolci, ma... Guarda, dopo cosa fa lui? Una volta che raccoglie tutte e la mette nei barattolini, le mette sott'olio, ma non ti dico. Ci vuole appento, ci vuole divertimento a fare quel lavoro lì, perché è faticoso, sbucciarle, poi togliere il naso, pulirle, mettere nel vaso e mettere sott'olio, e poi conservarle al periodo che non ce n'è. È buonissimo quel lavoro. Avanti, signor Pinna. Sì, solo quando c'è il fiore fa male, quando c'è che sta sbocciando il fiore fa male, però dopo quando comincia a crescere le fave no, non fa più male. Male va a valla. Buona saballa. Sì, male va a valla, in via Manuta. Poche parole, anch'io sono a fianco del confinante che c'ha le fave, adesso domani ma vicino le faccio sfacciare tutte, le faccio togliere, tutte. Perché mi sento male. Avanti, grazie. Io quando lavoro in casa sempre le mie alzate, una volta ci sono tutta la campagna, via da Lanzi, via da lì. A Rosario a fare la città, là. Un bei. Io ho confinante, l'ha piantato lo stesso, è vicino a me, perché è vicino a me. E io ho mia nipote, mia figlia che le fa male, anch'io c'ho un periodo che ho le gambe, le gambe proprio a posto, c'ho le gambe, e mi sento male, debolezza e stanchezza, tutto qua, e vabbè, là, c'ho anche il fiore, poi anche se dico cosa quello lì, io ho la gravia di fronte, ha impiantato un coso alla gravia, tutto fave, è tutto fave la gravia, figurati, avanti, da qui. Ehi, infatti, così. E allora, visto vicino a me, il mio vicino, la cosa l'ha piantata, a un metro dalla rete, ce l'ho in confine, tutto fave al nastro, e fave ho piantato io, dunque zona di fave, produzione fave da me, e vabbè, il fiore solo, adesso c'è il fiore fa male, ma poi quando non c'è il fiore non fa più niente. Dicono che fa male l'odore della buccia, ma è cosa, non ci credo proprio. Avanti, Gianmarino. Forse il fiore, deve essere un fiore che poi si fa male, capito? Io avevo due figlie che erano fabbriche, per cui faceva male. Che non l'ho piantato, non l'ho piantato per quello, ma io le piantavo sempre le fave. Però da me, siccome sono tutti cornacchi, tutte le volte mettevo le fave, me ne mangiavano le cornacchie. Ultimamente capito, c'erano tante di quelle fave, di quelle lunghe. Era pieno, belle, che una meraviglia. Ho detto, sabato scendiamo e le facciamo. Il sabato siamo scesi e abbiamo trovato solo la buccia attaccata. non la troverà più, ma tutta, sembrava fatta apposta. La voce attaccata e un rauro virato fino alla mancuna, ma la voce non ha impiantato più. Boh, vado, me li compro e basta. Non credo, no. No, credo ne mangia fa, ma è tranquillo, capito? Ehi, gatto, hai dato romati di curraggio. Parla su, ci ho messo il bucciava, gatto. Ah, e se non un bisillo. Ah, beh, padre, vai cosa abbiati, no, saranno. E non hai piantato più niente, ecco. Tutti chiedi. Boh, ma chi se tu finai tratta la serra, non so qui, ma ora, le curracce di rimagna ne canto vedo, vabbè, pieno, pieno di curracce. Sabina, hai ammazzato tutti. Ah, graziano, bisogna farati anche buccia, a capello fa l'attrezzo, e può darsi che si farebbero non finire farani. Se un po' che mi te la fa, ma non fa passare in tappaccio. No, da me l'hanno passato non è magnato, se ne è magnato non so che bacia. Là si è sbagliato il rete che è ritratto per la riva e viaggio molto in tanto. E la curraccia si è attaccata allo tram. È l'unica che fai così, mi vende di va. Se non fai così guai, Le curraccie sono maledette, Qui io mi accorgo quello che pianta le confinanze, non vado a bestia, non vado. Così qua di fronte alla gravia. Alla gravia vado piantendo, seminando e curraccie sopra. Avanti, siamo a pinna. Sì, caspita. Io invece non ce l'ho ancora di fave, bisogna che le metta l'anno prossimo. Ma hai piantato molte patate che tu visto. Tu anche che fava le piantate patate. Che mare so? Non so qui io. Non so mare un battato, no. Però bacchi. Bisogna coprirle, do la ragione Marino. Sono i buoni a rete e nanto, non li magni. Tu vedi in campagna veniamo un sacramento di curracci, se no tu ci metti una rete sopra, non ne mangi, se ti fate una beffa, anda a quelli in nido e te l'hai già imbucciata, ti lascia la cosa, la buccia attaccata alla pianta. Invece il bisello l'avete messo, ne ricacca ne buoni, tutto un montone buoni, e poi se lo mangiano. Io mi sono più l'onfiso, però quando per la rete non entrano. Ormai sono organizzato, io vedo quello vicino a fare la beffa. Proprio, lo vedi, bello piantendo, stasera, eh? Io sono andato, se vediamo, la lascia proprio nuda, tutti i semi si portano via. E così di fronte a me, di fronte al cancello, c'è la gravia, siamo quasi in vento, lo faccio, avanti, grazie. La carabina, la casa tua deve sparare 1-1. E allora, la tua battuta paria un cacchino, tanto sei finita tutta, presso gli accini. Un cacchino paria, ti cazzo la manna. E guarda, vicino a me, qui in campagna è pieno, io sono gli alberi del pino, diciamo, della gravia, che sono pieni, proprio, il vaso di bocco, il gazzotto, boh, avanti, siamo lì. Pure a me finne, non assai, però finne, si sono confinati, attaccati a me fino là, in mezzo alla rivaria. Però no, non mi fate niente a me, cicchetta, puoi piantare i canti di mare bianchi, non fate niente. Ma mi ha fatta la mia, bacchi, te l'ha giurito cosa faziani. Atta, boh, io esattamente proprio a essere più maturina, proprio baffanira, e invece se vuoi fare la baffanira e per la buccia attaccata. Come che li bucciano lui? E la buccia attaccata, gatta, tutta me ne l'hai mangiato, così che mi pare che, ma con chi lui fava ci ho fatto, era un mese di papa che abbia piantato. La buccia il trono è bianco più e basta, e così la paraggia fa sempre, no, me la comporeggio. Sì, la curraccia è maledetta, maledetta, il dogno rugo dentro, e fa di danno. si mangia tutto, si mangia la figa, si mangia un pessico, si mangia il marracocco, si mangia la neppola, si mangia la fava, un pisello, lo facciano il tondo, è salito, eppure se lo mangiano. Pure la merula la mangia la fava, pure la merula. Non lo so questo, non c'è mai mica. Non c'è mai mica se si mangia la fava e saburo. Avanti Luca. Ehi vabbè, la buccia non è buona comunque. Ma Graziano che mangia tutto, vero Graziano? E allora rompi la buccia, la buccia me la porto con lui. Come la caccia. Bravo, bravo Graziano. A chi dire che l'hai pagata, bisogna risparmiare. Ma chi, così è? Bisogna risparmiare tutto. E se non puoi una caccia pagata di 10 euro. Immagina se un poco tu, quanti scrivi in nera, se potete che Maccoli, sul negozietto di fronte al garage, era a 3,75 euro, 4 euro. Ed ha pigliato una caccia di 10 euro. Anche la buccia è pagata da qui, dunque la buccia un po' mangiata, no? È pagata, vero Grazia? Sì, no, non lo so pagare la vita. Allora mi sono cascia, ho lasciato 4 kg di roba allora. Sì, Tore. Ho fatto una pentola che cos'è? 10 cm alta, e larga sarà 20, a metà. E quindi ho conservato quei sacchetti di quelli del frigge, quelli grandi, il frigge. Ah, va bene Garcia, va benissimo. Avanti Tore. Sì, chiatta. Sempre sopra Moto Henry, Guido Graziano. Sempre sopra l'Atrie. Anda, vai, anda. Ti prendi Bacchi. Ehi, lasciamo fare Graziano. Che sto mettendo la cosa, la buccia in frigorifero, va. E ne poi in sacchetti, sacchetti da chilo, vedo che fendi, Gian Marie. Un grande risparmiatore Graziano, un grande risparmiatore, e tutto fa così, tutto nel possetto mette, e da poi a poco si ricava e si mangia. Otto, ebbene noi a che punto siamo? Così, volante? Sì, 30 metri viene giù di capo. Allora siamo tranquilli, tu. Meglio così. Vai, Mari. Ok. Graziano si conserva tutto. Ai tempi brutti. Tutto qua. Oia. Attento, tomando questo. E sto dicendo, ma chi con 40 quale sta usando? Quella che ho io l'antenna, o no? A quella piccolina che c'avevo prima. Come la tua, dai. La stessa misura hai fatto, sì. Sì, è uguale, te l'ho detto, uguale identica. Ma io che la io stasera con la moletta l'ho tagliata, adesso domani la piazza, perché non cercavo ancora la piazza dove era prima, così domani la provo su dove la piazza prima, là sul palo grande, e stasera sarebbe in mano nel terrazzino qua, dunque la vera bassa, comunque già sparava. Va bene, avanti, io grazie. Ehi, tu mani piazzala, però già ti sento benissimo. Col gommino stai qui. E allora, col gommino, tutto qua. Lo sai che io sono piccolo, grazie. E oggi arrivi bene, dipende dalle onde magnetiche. Così, arrivata la buccia di la fava. Voglio vedere se fai la guerra, cosa vi mangiate voi, Tore? E vengo a casa tua a mangiare, Paghiscio, se veni la guerra. E te, cazzata, andemo. Alla salamigo, atto, non ti vuoi salvare, ha detto a me. Cazzo, se veni la guerra. Pazienza, vedi che mangiamo cantoni. Vabbè, sto, manca l'altro con le altre, va. ok. Ma vengo che si cosi, si deve bacare zai, che mamma mia, oh ya. Chiatta, tu mi trompo di cava, ti ho mangiato buddito io. Però sarei due scia. E non posso dire che ti ho mangiato trocche di cavoli. Solo che si può dire mangiare. Che non vedo nulla, davvero la roba, ma devo dire la materia prima. La materia prima, vabbè io non ne conosco. Non ho conosciuto il fame, perché io sono più giovane di voi, dunque no. Niente da fare, io me l'ho sempre mangiato. Ma è il più grande, va bene, ma io sono più piccolo, dunque non ho. Fame non ho sofferto, tutto qua. Avanti to. Ehi. 30 metri ne mangiamo, vuol dire. Andave, vero Giomari? Piatto, e infatti. Oh yeah, per carità. Ma graziano già per la provincia, vuol dire che un rinforzo lo fate, dai. Casomai abbiamo un giardino fino a uno, capito? Sicché sfama a tutti, dai, hai di buon cuore, tu, vero graziano? E allora, anche se mi ha detto Giomari, ma ce la prendiamo una sopposta e poi anche tu fa qui perché tre. Sette! E poi dai tu tretto, loro, poi dai tu tretto, alla colombiera subito. Oro, mi siamo buffonetti di danzura e la battuta che siamo prendi, mi, già stai compreso là. Sento la Giovanni, che devo finire, una sabossetta a buonissima balena, mi. E allora finiamo un po' con i bossetti, cacciato. E se pulimo la balena, se pulimo dentro. E allora, che mi pulimo di capa grasso, oh, signore. Ma anche se vieni il bossetto che pigli tu, non pensare se ho tantria. Te la devi tagliare a me, dai, te la devi tagliare, pezzareti. E pigli la motosega a togliere a taglia, no? Scusa, già mi dà cacciare la motosega. Bene, la motosega la fa pezzi e la mette nel bossetto, vero cacciato? E allora mi ha dato un po' sullo spezzatino con un passato. E cosa vuoi? Un po' lo dici, spezzatino di balena. Grazie, picciolai. Però non ho pigliato una traccia di finire una sarrenata di balena in Sardegna, cazzo. Vedi, io c'è andato un po' di treccia in subostetti, mi devi pigliare. No, ma lì c'era già stagionata, lì ci ha diviso a me, ci sono tre treccia. Già li sono morendo in poco di questi baleni, chissà cosa le ha pigliato alla spiaggia. Effettivamente per un zucchero, non hai visto lì pinguino cosa erano lì, mi pare fino a 60-70 abbezzi finirani, tutti molti arrenati. No, io mi sono programma dei pinguini, arrivati tutti i pinguini minoreti, dopo un paio di mesi li abbandonano lì, ma gli andare da già fatto. Si vede che aveva fame, appetito, non mancava e ha cominciato a trinciare. Tu piglia un bossetto mal sicuro e comincia a ribare, non si sa mai non ci fai la guerra. Così che noi finiamo ogni anno per uno, così che gli sfami, capito, grazie. Sì, ci mangia già un pinguino che la bocca, e sui mesi ci rimangia, vero dottore? Dottore, per senti la guerra, otto! Che si andano pagando per la guerra, che non ci piace di mangiare i pinguini o la bocca. No, i vivi, gli esquimisi, nell'arzato, cosa si chiama, insomma, i vivi in Alaska o niente, se li mangiano, e come si li mangiano, li pone in arcicca. E tipo il boccalami, avanti da chi? Ehi, infatti. No, poi cosa, Graziano, li vendono bisilli io, e i cuponi, i frigidini, cose, non potete compareggia. cascetta e tutto il Don Marino, ne cava il bisello congelato dentro la cascetta, senza imbucciare. E venne a guerra e bisogna mangiare pure la luce per risparmiare. A bada che il bisello me l'ha imbucciato, chissà che da passata. Cioè chissà che da vero poi. E mi ha un po' di bustina un po' secca, un bisello freddo. E la lì mi ha fatto i bulloni. Ma bucce tutto però devi considerarmi, se no è buono. Ehi, che si tenna reggi, caro credo. Cura buccando va che la pena fatto. Abita insomma Mari, bucce tutto bisogna considerare. Ti stai sempre apparenti, capito? Sempre apparenti. Ma è così legge se il buono in un bossetto, capito? Ecco ma cosa vuoi pigliare un bossetto? A fare il provviste di tutto, capito? Sì, no, come te fai, capito, già senza mangiare. Grazie, arrasta, pigliala sul bossetto, più manna ancora, di chi su di fai? Che al macco picciati la balena dritto. Grazie, non vuoi un bossetto tipo quello dell'altro, leggerati, ben domanno. Un bossetto tipo... tipo quello dei gelati. Se pensate un quello lì è grande, dunque la balena ci sta bene lì. La fai in due o tre pezzi ci sta bene in quel forzetto, capito? Davvero? E allora buffonente, buonasera anche lì, avanti. Buonasera, e questa parte è un tavolo. Lo so. Avanti, Giovanni. Ehi, via. Tu sei. Ehi, da ragione, buonasera. Piglia, grazie, piglia fuccettini. Copita rosa, piglia un bottetto più manno. Piglia un altro treno, grazie, a me non ce la metti dentro. Eia, infatti. Da salvarlo, facciamo quasi meglio. Pacchi, avanti. Eia, sempre con Graziano la vendica. Sempre un Graziano. Graziano prende la brumica come se la formicola. La formicola la fa, se fa la brumica per il tio, fa mangiare in inferno. Così offende Graziano. Ah va, poco di gatti, interrate, non ci posso la sveglia, è piatta, non mangiare. Col cazzo del gallo. Romari, mica stanotte cambia. Ma guarda, stanotte? Ma non è fino a fine mese, stanotte cambia. Ma allora facciamo, uno è avanti, uno è indietro, uno è avanti, no? Un avanti. Benissimo, cazzo come mi sta arrivando bello forte di Giuseppe, una bella popolazione chiarissima, anzi, fortissima. Bacchi, buonasera. Bacchi, a Giuseppe non ascolti? Ascolta, Io ti ascolto forte e chiaro, benissimo. C'è una voce con gli squillanti, Giuseppe. E sei perfetto. Bacchi, a Giuseppe, ascolti, sì. Bacchi! Cavo. E che è Natalino, buonasera, tu sei Natalino. Non ricordo. Sei cambiato i saluti al 100%, anche in che zona sei, mi arrivi abbastanza bene. Bacchi, tutto a posto? Sì, insomma, quello che è a posto, l'altro bisogna metterlo a posto. Piano, sempre andando avanti. Giuseppe, non si ricorda di te, no? Sta vecchiano Bacchisio. Bacchisio sta vecchiano, Giuseppe, comunque sta arrivando forte, sta arrivando, Avanti, Tore. Catta, buonasera. Anda lei, anda. Quello che è a posto lo facciamo mettere a posto, vero Bacchi? Io già è a posto adesso. Adesso mettiamo tutto a posto, tutto in riga. In fila per uno. Giuseppe, come vai a casa? Non sei solo al circo? Ho fatto il bagnato per altre cose, ma non volevo. Ah, ok, va, basta così. Va benissimo, va bene, avanti Giovanni. Ok, dai, io ne approfitto. E chiudo, dai. E devo fare cose. Per cui ne approfitto. Ciao Marie. Buon proseguimento, sono in casa, buona cena, a domani se coincide. Buonasera anche a signor Tore, saluto in casa, a domani, idem a Bacchisio. Cordialità e Leoncino. buonasera a tutti. Bacchi, riprendi tu, vi ascolto. Per il segnalino chiudo. Ehi, Gio Maria, salutissimi, grazie della compagnia. Saluta la signora, ci sentiamo domani se coincide. Rimettiamo tutto il leoncino per salutarti, avanti. Giuseppe, non mi prende, riprendo io, ok, benissimo. Ciao Gio Maria, ben sentito, saluto in casa, ci sentiamo domani se coincide. Bene, avanti to. Sì, buonasera Gio Maria, ci sentiamo. Alla prossima, domani, se coincide, ok. Chi c'è rimasto? Graziano. Ciao Gio Maria, buonasera, buongiorno. A domani se coincide. Salutoni da parte di Paoletta. Ciao, avanti Luca. Aspetta. Vedi chi la vuole salutare, Lorenza? A vicino ce l'hai. Ehi, Paoletta. Buonasera, un bacio, ciao Lore! Ricambiate un bacione, ciao. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao, Mario, buonanotte, dai. Ciao a tutti, buona cena. Avanti, Giuseppe. Ehi, chiudo pure io, va. Ci sentiamo domani. Ciao, Marino, ciao, Luca. Ciao, Tore, ciao, Lucino, ciao, l'ascolta. Ciao, grazie, ci sentiamo domani, ok. Ti prendi Bacchi. E io salutiamo Graziano, ciao Graziano, buona serata. Buona cena quando la farai e buonanotte, saluta la signora. A domani se tutto va bene. Avanti Marì. Buonasera, saluto in casa, ci sentiamo domani. Avanti Giuseppe, non mi prende, c'è anche Luca se non mi sbaglio. Luca, avanti. Luca si sta preparando per mangiare la pizza, avanti. Tore. Ehi, caspita. E allora, signor Bacchi, freddo o fatto o no? Ma non ho fatto, freddo, casina, un po' di freddo, super freddo, capito? Super freddo, Tore, già l'hai visto anche tu. Mi sono trattenuto altri 10 minuti, un quarto d'ora con Antonino, poi mi sono salito. C'era troppo freddo. Non faceva stasera, no, a starci. Catta. Se farà ancora di più la temperatura, se ne farà da. Ah, la sorte, io. Non si può lasciare nulla, no. Poi era freddo, proprio. Sono dormito congelato. Poi la ferita mi friggeva, cosa male, ero freddo, un po' d'uria. Infatti, ero freddo ancora a Biggio, Ma, andava, speriamo che domani non sia così. Che a pulso va a pulso buro. Guardate che saliva la temperatura forte e invece se ne farà da stasera. E vabbè, riprende il signor Marì. Il freddo anche la mattina a petto, la mattina c'era proprio la olia, giù poi abbiamo le moto tutte bianche la mattina. C'avevo anche la macchina oggi in campagna qua, avevo la macchina un po' bianca, mi è toccata pure il vetro, se non si vede nulla. Vabbè, c'è il tempo suo, spero che ha messo acqua domani, pure ha messo brutto tempo a per Pasquetta. Dopo Pasquetta aumenta la temperatura, caldo d'estate, avanti da chi? Speriamo che arrivi questo caldo, speriamo che adesso il freddo basta, le piante cominciano a soffrire, sono in fiore e dunque se fa freddo il fiore cade giù e il frutto non ne mangiamo, eccolo lì. Vediamo se il leoncino c'è ancora, leoncino. No, è diventato un altro freno, non c'è più. Rimettiamo a Luca a vedere un po'. Sì, io... Quanti metri sono di quel cavo? 30, basta, non si. Ok, dai, Luca sta andando via. Ciao Luca, buona serata, buona cena. Saluto al Corea, a sentirci domani se tu coincide. Bye. Riprendi Marino. Benissimo, ciao Luca, ben sentito, a domani se coincide. E saluto la signorina. Bene, avanti Tore. Sì, ok, ciao Luca, ci sentiamo alle prossime. Ok, buon divertimento e buon appetito. Se ce n'hai. Ok, riprendi Bacchi. Ehi, è così proprio. Vediamo un po'. Marino, come sta combinando Marino? Avanti Marì, qual è la attrezzo stai usando oggi? Sto usando quella da solita, infatti io stasera ho tagliato con l'affare della ho tagliato con quelle misure, l'ho provato che era in terrazzina, anzi domani se non piove, non lo sapete, se non c'è il cavo lungo, da Guido non è arrivato, mi ha detto prima che arrivava a metà settimana, ieri mi sono avvicinato, sono entrato e mi ha detto, ieri, ma guarda, sono andato a quel paese e ce l'ho mandato, perché scusa, non lo potevo dire prima, e guarda, non è arrivato perché non ho raggiunto la cifra, se non fa la spesa, non deve superare, i 500 euro, cioè materiale non gliene portano dal continente, hai capito? E io ho detto, scusa, perché non mi hai detto prima? Ah sì, io con la roba l'ho ripresa e ripresa, adesso fa una cosa, quando arriva te la mangi e me ne sono andato via. Ah, se lo dico con su e ci sono per una sopra, avanti da che? Io è da Torino perché non chiedo avere quanto ti fa. Cosa ti fa quello normale? Sì, lo normale, poi non mi interessa nulla, non capisco come batti. Sì, ma mi ha fatto incazzare, mi ha fatto rimanere 10 giorni, fa nulla, così. Arriva in settimana, poi oggi ieri mi ha detto lì, perché non ho raggiunto la cifra e non me l'hanno mandato. Ma a metà settimana, io ho detto, appena arriva te lo metti, te lo mangio, gli ho detto, adesso non so via. Scusa, non ho capito, perché non mi ha detto prima. Mi sei già organizzato, no? Avanti, to. Caspita, bobo. Già farle così bisogna fare, piano piano. Io ce l'ho qua davanti, posteggiata. Ma cosa? Cavo o l'antenna? L'antenna che mi ha dato Bacchisa ce l'ho posteggiata qua. Quindi no, me la devo rinforzare la staffa. Poi se cosa me ne abbongo in ghidda. Allora io stasera me l'ho tagliata, la misura mi ha detto lui. L'ho provata e va bene, anzi non, e l'ho provata in basso. E lo so lì su. Sopra ero dove metto la macchina e ho visto che mi sentiva Graziano, Giovanni anche Bacchisio in basso. Se io adesso metto sul palo, avessi mi senti. No, io lo prendo il cavo, ognuno di esso, quando esco dal lavoro vado a prendere il cavo direttamente. Vado a fusare prima oppure lo posso, oppure salgo sulla Torino lo faccio prima direttamente. Fai bene, meglio così. Anche io questa la ritocco e poi a provarla la proverò giù quando biglio. Vabbè, io mi apro il cavo, la piazza dove c'è la mantova e ciccia, così almeno poso il cavo dentro dove sono qua in questo momento qui e non devo uscire fuori a piedi al freddo, non penso. E la piazza così la piazza, dopo in estate quando ci siamo tutto la metto più in grazie di Dio. Tutto qua, con quella staffa che ha fatto Bacchisio va troppo bene, ha fatto 13. Avanti Bacchisio. Ok, ma hai usato quella staffa che ti ho dato io? Sì, ho usato quella lì. Ci ho messo, ho fatto dei buchi da quella che ci ha attaccato l'antenna. Ci ho messo due viti autofolanti e andava bene. E l'avevo già piazzata nella mantova, capito? Dopo tu mi hai detto di staccare che c'era da tagliare il pezzo, l'ho tolta, stasera l'ho tagliato. Adesso lunedì prendo il cavo e poi tagliamo i piedi e nella piazza dove c'è la mantova, così il capo me lo passo qua sotto, capito? Ecco, lo farò arrivare sin giù. Benissimo. Anche a Tor, non è che ti serve una staffa da attaccare al palo anche a te, no? No, già ce l'ho, già, su in alto, quando ne stacco quella là, già ce l'ho, stacco quando è cosa che mi serve, già ce l'ho la staffa. Ma perché ce l'ho voi, ce l'ho un braccio. Un braccio lo stavo facendo, ce l'ho, da attaccare al palo, a fare la bandiera, diciamo così. No, già ce l'ho, a Puglia, già ce l'ho la staffa, è bella pure ce l'ho. Cata, ne devo staccare quella là, ne devo staccare, a Puglia, se ce l'ho. E allora va bene. Che poi, se non ce l'hai, basta prendere un'antenna vecchia di televisore, ne tagli i radiali e usi le staffe al palo e la stecca d'alluminio e ci metti l'antenna. Infatti faccio così, a Puglia, già c'è il coso qua, Poi c'ho anche un paletto c'ho da con il buco da attaccare. E poi si buoni purughisso. E allora sei a posto. Allora sei a posto, tu sei già sistemato. Andiamo via, andiamo. Qui tu hai marito, tu l'hai già sistemato. E da ora, allora tocca a me sistemare. E adesso vediamo lui a filare il capo. Filare il capo, oggi almeno l'attacco di parente qua attacco, però a fine fuori c'è freddo. C'è freddo. Sto sempre utilizzando la solita io, ma qui capisci? Sempre la solita sto utilizzando. All'interno c'è caldo. Non posso utilizzare neanche l'altra ancora che c'ho fuori in anche il cavo, che non arriva all'interno. Adesso lunedì 25 minuti il cavo e a posto, due piedi. E facciamo 13. Avanti. Sì, ma adesso sei su o giù sì? No, sono giù, sono giù. Sono giù una stazione, capito? Su. Su non c'ho nulla, ma chi? Su non c'ho nulla, su ho provato solo l'apparecchio l'altra volta e basta. Su, tutto qua. Sì, ma per l'inverno ti conviene portartelo su quello lì. Deve fare una deviazione e portarlo su, almeno sei al caldo. Ma sai cosa è una succia, la televisione accesa, una cosa e l'altra, ma chi me lo fa il cazzo, io voglio silenzio e ciccia. No, io voglio solo silenzio, non ne voglio baccano. Perché fare le scale, massimo stasera c'è freddo, oppure piove. Invece se è brutta giornata uno si sta a casa. Al calduccio e modula. Adesso vabbè già c'è più posto, già sono a coperto, Bacchi, già sono a coperto. Un domani se mi faccio, mi devo fare la veranda, mi chiudo la veranda sopra. Allora sì, direttamente dal palo, faccio un buco, infilo il cavetto e faccio 13, capito? Allora sì, mi piace tutto anche sopra. Sia giù sia sopra. Se fai una verandina già va benissimo. Ci puoi mettere tutto dentro. Va bene, si otto, avanti. Ehi, andato tutto bene. Facciamo tutto, facciamo. Ma speriamo che sia così. Sì. Maritore poi quando piazza l'antenna giù, io da campagna di Antonino gliela sparo. Le abbucco in parte in parte. E le puoi mettere anche la portante da chi? Tanto lui non sa la cosa, capito? Poi? Che cosa sa lui? Non sa nulla. Se tu dici c'è la portante, dice no, il gatto che sta fischiando. Però so. Sì, no, certo, la puttana a me, cioè, fai una cosa e ne pongo un'altra. Sì, un bel saliccio, tu vai d'accordo, un bel saliccio costa che poco, 100 e qualcosa, non so, ne aveva due, ne aveva, uno da 8 e uno da 12 metri, già con i tiranti, dove Giuseppe Daniela, cosa di Chievoli, del bar assistente di Sky, cioè da lui mi ha fatto vedere che stava svendendo e stava. Ah no, Marì, c'è un albero di pino, quelli fa piani, no? Ci sono i piani. Sembra che è alto, se no, una decina di metri, 8-10 metri è alto. Ci sale sopra perché si può salire, siccome questo fa piani i rami, sembra una scala a chiocciola. Sale sì su. E metti l'antenna. E allora risolto, Otto. Allora risolto. Allora fai doppio vento. Fai trecce allora. Con i rami ti fai tiri i cosi. Radiare si apposta. Avanti, Otto. Ehi, se no, già lo sai come ti posso io. Si pianta uno di si bari da 12 metri. Ehi, se li pongo in tanto. A voglia. A voglia ce ne stanno, antenne, antennini. Ehi, vabbè. Speriamo prima possibile, dai. Sì, se no, pazienza. Poi che mi rimanghi in occhi. No, ne meglio campagna, meglio campagna. Ah, ma cosa con più fisi a te, no? Allora, manco ti controllo bene, no? Con il binocolo ti controllo. Da chi dove faccio la carabina e ti sparo l'antenna, non hai compreso? Ma chi? Metteci su di Comanzano. Cos'è? E su di Comanzano cosa? Metteci su Bizzino. Ah, vicino coso, ma Matteo. Ehi, certo. Così mi ha un tiro di palla a Marino Rovego. Ehi. No, così no. visto noi fermo Travagliuccio Marino a Tole. Lui piazza l'antenna e noi veniamo a Lampemmo, capito? Perché lì non la può tenere lui l'antenna. È vietato piazzare antenne. Capito, dottore, sta attento, perché la situazione a me è pure Bacchisio. Capito, Maria, è vietato piazzare l'antenna da quel terreno lì. Perché poi nascono come i funghi. Dunque, sei sfortunato, Non puoi piazzare nulla. Se no, se non mi... Ma chi? Che tu baro? Che c'era che sono baro? Mi ha detto tu. E se ne può che ci fissi no? Ah, c'è della Gianuario, lo padrone è Gianuario, lo farei la gioia fredanesa. L'ultimo Gianuario, di saltarvi due cose, due zanche, e a posto. Anda bene meno, dai, io ve le faccio in QRT perché è arrivata l'ora per me. Ciao Marino, salutissimi, ci sentiamo domani, tanto non lavori, già sei a casa, fatti sentire. Ciao Tore, buona serata, a domani. Se ti serve qualcosa compratela. Ok. Ciao Marino, ciao Tore, buona serata ancora. Ok, ciao Bacchi, ben sentito, sono in casa. Ci sentiamo domani, domani mattina negativo, perché domani mattina può fare un riporto al campo sportivo. Io l'ho promesso, non vado mai, ma domani andranno, vado, va. Domani la consentiamo, domani mattina. Tutto qua. Ci sentiamo domani a pranzo oppure domani sera. Avanti, to. Sì, ok, dai, facciamo così, facciamo. Ok, ciao Bacchi, ci sentiamo domani, ci sentiamo se tutto va bene. Va benissimo, dai, riprendi, Mari. Così è, to. Non vengo in vano. La faccenda sta andando avanti, sì. Sì, sta andando avanti, sì, ma... Mi pare che sono sempre zicchendi, però non tenevo un'idea. Piano piano, stare dove ti dico io e chiedere un preventivo, scusa, ma chiedo preventivo non costa nulla, stare su e chiedi, ti do il nome, pure le dice il nome mio, ti mando io, sono amici, quindi vai tranquillo. Ma dove? In via Umberto, la che banca? Lì, no, aspetta, adesso aspetto questo di lunedì o martedì, vedo cosa mi dicono, e poi guardo, mercoledì. Scusa, chiedo non costa nulla, tu vai là e chiedi, mi serve tanto, le fai vedere tutto quanto, ciccia, scusa, io per mia figlia ho fatto così lo stesso, per le cose, sono salito, e ho fatto quello che devo fare. In giro di qualche mesetto ho tutto risolto. Ma quella vicina al Moderno? No, più su ancora, su. Più su di cosa, come si chiama? C'è Rubatto, dopo Rubatto c'è la traversa, leggermente più su. C'è quello dove c'erano prima le guardie giurate, dove c'era il dirigere di pace. Più avanti, qua c'è un'insegna gialla. Che banca c'è scritto, che banca? Ah, già compreso, sì. Ho capito dov'è. Già ci passo anche lì. Tanto sto domandando a tutti. A chiedere non costa nulla, Io sono andato l'altro giorno per una questione e adesso devo aspettare. Devo aspettare qualche giorno, vediamo, mi metto settimana, perché se non c'hanno molto lavoro, settimana mi deve dare una risposta. Devo fare un piccolo lavoro e così via, qui a casa. Tutto qua. Sempre dalla banca, io ho tutto il conto su che sta nella banca, perché avevo chiesto mutuo e ci continuo a fare così. Ho chiesto due preventivi, tra un preventivo e l'altro c'era un minimo, c'era intorno ai 3.000 euro di differenza, 3.000 euro di differenza, però negli anni che ho chiesto, tutto qua avanti. E ce n'è quanto te l'hanno fatto? 20 anni? No, io sto parlando, questo che sta adesso è poca roba. L'altro ho fatto 20 anni, l'altro. Capito? 20 anni, l'altro. Andabè. Vabbè, dai. Già ci sentiamo, Mari. Ok, dai, mi sociamelli. Ok, ci sentiamo domani, Mari. Ok, ciao, ben sentito, sono in casa. Dai, sentiamo domani se tu uscire. Bene, io saluto tutti gli ascoltatori e faccio anch'io pure così, dai. A domani, ciao. Ok, ciao Mari.